Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dopo il 4 di dicembre prenderò con calma una decisione se continuare o meno in questa attività politica o tirarmi fuori addirittura della politica. Il mio senso di responsabilità nei confronti del Paese, nei confronti dei cittadini che mi hanno dato 200 milioni di voti in 20 anni, nei confronti dei miei colleghi, degli azzurri che sono stati con me a combattere tante battaglie di libertà dal 94 ad oggi, mi fanno sentire ancora necessaria una mia presenza. Benissimo. E quindi è necessaria la presenza di Berlusconi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'avete sentito, prima dice ma adesso vediamo dopo il 4 dicembre, il giorno fatidico del voto sul referendum, se ritirarmi o meno, ma invece pare tornato con grandi energie e con grande voglia anche di riprendersi i suoi spazi, anche con le varie dichiarazioni che ha fatto in questi giorni, che non se ne parla di primarie richieste da Salvini, Meloni ed altri del centrodestra. Ci occuperemo però questa sera, fra i vari temi, della sentenza che è arrivata sul processo per l'alluvione a Genova del 2011, in cui ci furono 6 vittime, è arrivata la sentenza di condanna per l'ex sindaca Marta Vincenzi. Questa è una sentenza di primo grado, comunque piuttosto pesante, sono 5 anni di carcere. Poi ci occuperemo della vicenda delle firme irregolari che coinvolge il Movimento 5 Stelle a Palermo, ci sono stati degli sviluppi. Fra i vari temi poi anche quello dei dati Istat sulle culle sempre più vuote in Italia. Come mai? Ci chiediamo come mai, cercheremo di capirlo con un esperto, con un sociologo. Intanto, per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete, come sempre c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre per voi, lì giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Quindi prima di approfondire i vari argomenti che vi avevo elencato, sopra elencati direi come sempre il riassunto della giornata. L'alluvione di Genova del 2011, l'ex sindaca Vincenzi condannata a 5 anni per i tragici fatti in cui persero la vita 4 donne e 2 bambine. Lei dice sono innocente, non finisce qui. Effetto referendum sulle banche a Piazza Affari, la borsa di Milano ha ceduto l'1,81% e lo spread ha chiuso a 186 punti. La manovra economica via libera della Camera, in arrivo 30-50 euro per le pensioni più basse. La vicenda delle firme irregolari che coinvolge i 5 Stelle, sale a 13 il numero degli indagati a Palermo. Stati Uniti, la Casa Bianca ribadisce che non ci sono stati brogli nel voto per le presidenziali, come invece denunciato dal presidente eletto Trump. Sempre negli Stati Uniti, in Ohio, un uomo di origini somale ha assaltato un campus travolgendo alcuni studenti con un'auto, 8 i feriti. I dati Istat sulla natalità, culle sempre più vuote in Italia, nel 2015 quasi 17.000 nati in meno rispetto al 2014. E per il calcio, stasera posticipi di Serie A, intanto il Napoli ha pareggiato col Sassuolo 1-1, mentre sono in campo Inter-Fiorentina 0-0. Ah no, parrebbe che ci sia un gol da parte dell'Inter, ecco sì, lo vedo adesso, questo in esclusiva ve lo do. Intanto però partiamo dalle altre notizie, con appunto questa sentenza di condanna per l'ex sindaca di Genova Marta Vincenzi per i tragici fatti che seguirono l'alluvione del 2011 a Genova in cui morirono 4 donne e 2 bambine. Vincenzi è stata condannata a 5 anni di carcere, accusata di omicidio plurimo, disastro colposo e falso. Lei ha commentato: io mi considero innocente, meno male che in Italia sono previsti 3 gradi di giudizio perché non è finita qui. E poi ne torneremo a parlare qui nel corso di Effetto Notte. La politica, tra 6 giorni si vota per il referendum costituzionale e sentiamo le ragioni del sì e le ragioni del no a partire dal Presidente del Consiglio Renzi. Sono molti ancora gli indecisi e la partita è apertissima, ne è convinto Matteo Renzi, che scrive ai militanti PD: tra 6 giorni sapremo se finalmente potremo iniziare il futuro con semplicità e forza. Nel pomeriggio il Premier è su Facebook con Matteo Risponde, dove ribadisce la linea d'ottimismo. A mio giudizio decisiva sarà l'affluenza, perché tutti i sondaggi fino a quando si potevano pubblicare davano una certa affluenza. Io ho l'impressione che questo referendum vedrà un sacco di gente andare a votare. Non manca poi un attacco a chi mette in giro notizie false. L'importante è che non cadiamo nel tranello di chi vuole giocare soltanto sulle bufale, e questa delle schede Regnano è impressionante. Con la CBS invece il Premier considera anche la vittoria del no non sarà un problema per lui ma per gli italiani, perché si sarà persa un'opportunità. Nella campagna referendaria entra a suo malgrado il capitano della Roma Francesco Totti, che chiede lo stop ad usare la sua immagine per il no e diffida chiunque dall'utilizzarla. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Fronte del no che a pochi giorni dal voto invita gli elettori a non farsi intimorire dalle presunte preoccupazioni internazionali sulle conseguenze negative di una bocciatura delle riforme. Gli italiani devono essere liberi di votare, rivendica da Forza Italia Brunetta. È troppo importante la nostra Costituzione per essere strumentalizzata in questo modo leggermente schifoso. Berlusconi guarda invece al post-voto. Anche con la vittoria del no, spiega, i numeri parlamentari non cambierebbero, quindi se Renzi deciderà di restare potrà farlo. Un governo tecnico non avrebbe senso, dice intanto Grillo. Spero, aggiunge il leader 5 Stelle, che ci sia la possibilità di votare le persone, di scegliersi una legge elettorale. No al governo tecnico, dice Salvini. Abbiamo già dato con Monti, aggiunge il leader della Lega. Si deve andare al voto. Questo è il governo delle lobby, attacca da Sinistra Italiana Fratoianni. La vera domanda ogni mattina è che cosa si inventano oggi. Il Financial Times ci spiega che se vince il no falliranno 8 banche. Questa si chiama ingerenza. Respinti da Consulta e Cassazione, infine i ricorsi del Codacons contro il quesito referendario. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oh, a proposito di quesito referendario, vi ricordo che a partire da oggi, il viaggio di Radio 24 sul referendum, quindi con delle schede anche fra le altre cose, dove ci sono i motivi del sì e i motivi del no, e anche qui a effetto notte, voi che chiedete sempre, ma i contenuti, andiamo nel merito, tutta la settimana ci sarà una scheda per spiegare i vari punti di questa riforma costituzionale. E adesso, dopo l'allarme lanciato dal Financial Times, anche la borsa oggi è stata in forte tensione. Se domenica vincerà il no, fino a 8 istituti italiani rischiano il fallimento. È l'allarme lanciato dal Financial Times, che cita i soliti noti: Monte dei Paschi di Siena, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige, Etruria Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. Il motivo è che con un governo traballante, uno spread in salita, ora 190 punti, sarebbe più difficile convincere gli investitori a sostenere i piani di ristrutturazione delle banche, a partire dall'aumento di capitale di MPS, che crolla del 13,8% nel giorno della conversione dei bond subordinati in azioni. Male comunque tutti i bancari, che trascinano Milano a meno 1,8%, peggior piazza d'Europa. Certo, le borse sperano in un intervento della BCE, che si riunisce 4 giorni dopo il referendum, ma Draghi avverte: il debito italiano è sostenibile ma resta vulnerabile. In ogni caso, la questione delle banche è fuori dalle nostre competenze. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di banche, una banca nel mirino della magistratura in Sicilia, dove è stata sequestrata la BCC di Pacheco. Porta il nome dell'intellettuale senatore Pietro Grammatico, ma la BCC di Pacheco, in provincia di Trapani, era una banca al servizio della mafia, quella che fa capo a Matteo Messina Denaro, il latitante che continua a controllare il territorio della Sicilia occidentale. Almeno così la pensano i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo, che hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale di Trapani l'amministrazione giudiziaria dell'istituto di credito. Dalle indagini condotte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, guidato dal colonnello Francesco Mazzotta, è emerso che almeno 323 tra soci rappresentanti della banca avevano avuto problemi giudiziari. L'indagine è partita dall'analisi dei rapporti che l'istituto di credito ha intrattenuto e continua ad avere con il mafioso Filippo Coppola, detto Professore, e i suoi familiari. La banca, ha spiegato il procuratore capo di Palermo, Franco Loboi, è stata gestita e amministrata negli ultimi anni, e addirittura dalla sua creazione, da soggetti in contatto con ambienti legati alla criminalità organizzata o da soggetti ritenuti vicini alla mafia. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Ora parliamo della manovra economica, perché oggi è arrivato il via libera dalla Camera. Via libera della Camera alla legge di bilancio, con 290 sì e 190 contrari. Dalla prossima settimana, dopo il referendum, la manovra passerà all'esame del Senato. Diversi nodi ancora da sciogliere, rinviati a Palazzo Madama, dai giochi alla ripartizione dei fondi per gli enti locali, dalle banche all'estensione del bonus antisismico ai condomini. Alla Camera comunque la manovra è stata migliorata, dice Matteo Renzi. Le tasse continuano a calare, ci sarà un aumento da 30 a 50 euro per le pensioni sotto i 1.000 euro, elenca il Presidente del Consiglio, e le imprese nel 2017 2017 potranno contare sugli incentivi fiscali di Industria 4.0 come super e iperammortamento. La legge di bilancio è ben impostata, aggiunge Renzi, al Senato non sarà messa in discussione dall'esito del referendum. La manovra intanto supera l'esame dell'OCSE che, come spiega il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, considera il debito in calo. Il metodo di calcolo del debito è leggermente diverso rispetto a quello usato dalla finanza pubblica. In ogni caso resta confermato che il debito si stabilizza, questo è un dato che conferma come la solidità finanziaria del paese continua ad essere perseguita. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la vicenda delle firme irregolari che coinvolge 5 Stelle. Sale a 13 il numero degli indagati a Palermo e alcune delle persone interrogate, tra cui la deputata Mannino, si sono avvalse oggi della facoltà di non rispondere. Poi tra poco approfondiremo anche questo tema. Ora ci spostiamo all'estero, sugli Stati Uniti, e di almeno 10 feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell'irruzione di una persona armata in un campus universitario nell'Ohio. Dopo 2 ore di emergenza, il campus, l'emergenza è terminata. Secondo fonti della polizia, citate dalla CNN, l'assalitore che è stato ucciso dagli agenti potrebbe aver agito da solo ed essere di origini somale. Sembra, prima parlavano di un'arma, adesso dicono che probabilmente ha travolto gli studenti con un'auto. Non si esclude che possa essere stato un atto terroristico. Nel frattempo la Casa Bianca ribadisce che non ci sono stati brogli nel voto per le presidenziali, come invece denunciato dal presidente eletto Trump. E sempre Trump muove minacce a Cuba nel giorno dell'avvio della lunga cerimonia di saluto al comandante Fidel. Donald Trump minaccia, L'Avana osserva il lutto. La prima settimana senza Fidel Castro mostra tutte le contraddizioni della transizione che si vive nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Il presidente eletto statunitense Trump, ormai debordante su Twitter, usato come la sua personale agenzia di stampa, minaccia: se Cuba non intende chiudere un accordo con noi migliorativo per la sua gente, porrò fine all'intesa esistente. Trump non precisa a quali miglioramenti si riferisca, se solo a quelli relativi ai diritti umani o anche a quelli economici, con ulteriori concessioni da parte dell'Avana. Una sconfessione in piena regola del disgelo avviato 2 anni fa da Barack Obama, che non solo arriva nel momento diplomaticamente meno opportuno con un paese in pieno lutto, ma coincide anche con l'arrivo all'Avana del primo storico volo commerciale in oltre 50 anni tra Stati Uniti e Cuba, atterrato in mattinata nella capitale dell'isola. Molti giovani también presentes a esta hora. In Piazza della Rivoluzione a L'Avana, code infinite di cubani rendono omaggio alla memoria di Castro, come mostrato in diretta dalla TV statale. Cannonate a salve hanno segnato la mattina a Santiago de Cuba, città dove le ceneri di Castro saranno definitivamente seppellite dopo la lunga marcia di addio. Intanto è stato reso noto che il presidente russo Putin non andrà ai funerali di Castro, al suo posto il presidente della Duma Volodin. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. Vi ricordate il femminicidio dello scorso fine settimana, il 116° dall'inizio dell'anno? Ebbene, è stata eseguita stamattina l'autopsia sul corpo di Elisabeth Chispe, la 29enne peruviana uccisa dal suo ex compagno Vittorio Vincenzi, 56 anni, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Seveso, vicino Monza. Secondo quanto rilevato in prima battuta dal medico legale, sul volto della donna sarebbero stati visibili arrossamenti compatibili con ustioni. Gli inquirenti sono quindi in attesa della relazione di questa autopsia completa per avere la conferma che Vincenzi, prima di strangolare l'ex compagna, le abbia addirittura spinto il volto dentro una pentola di acqua bollente, poi ritrovata dai carabinieri accanto al cadavere. Un'eventuale conferma per la procura di Monza si tradurrebbe in un aggravamento della sua posizione, della posizione dell'uomo, perché oltre che omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, Vincenzi si vedrebbe contestare anche l'aggravante delle sevizie. I dati Istat sulla natalità in Italia: culle sempre più vuote nel nostro paese, nel 2015 quasi 17.000 nati in meno rispetto al 2014, a conferma di una tendenza che dura da diversi anni e della quale parleremo più tardi e cercheremo anche di comprendere le cause. Per chiudere parliamo di calcio, con i due posticipi di Serie A. Napoli solo 1-1, ma l'Inter mi sembra, Dario, che questa volta voglia darsi da fare. Ciao Dario, allo stadio. Ciao Roberta, un saluto da San Siro. Hai proprio ragione, perché siamo appena al 14° del primo tempo e l'Inter è già in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina. Nerazzurri subito avanti dopo appena 3 minuti con un bel destro dal limite dell'area di Brozovic, che ha battuto Tatarusano, e al 9° minuto è arrivato il raddoppio firmato Antonio Candreva, l'incursione sulla sinistra di Perisic, Tatarusano che devia il cross basso del croato però proprio sui piedi di Candreva, che ha gioco facile a infilare il raddoppio da pochi passi. Ma l'impressione che la partita non sia ancora del tutto finita l'ha data poco fa la buona occasione avuta dalla Fiorentina all'11° con Handanovic, che ha salvato miracolosamente a tu per tu con Borja Valero, che gli si era presentato di fronte a due passi dal gol. Siamo quindi al 15esimo, 2-0 dell'Inter sulla Fiorentina e poi, come ricordavi, nell'altro anticipo, occasione persa dal Napoli per farsi sotto alla capolista Juventus, perché i partenopei in vantaggio con Insigne sono stati raggiunti nel finale della gara del San Paolo dal Sassuolo. All'83esimo è arrivato l'1-1 firmato ancora una volta da De Frel. Per il momento da San Siro è tutto. Grazie Dario Ricci, buona partita intanto, poi ci aggiorneremo. Intanto vi aggiorno sui vostri messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Intanto ringrazio Andrea, dice era tre giorni che non ascoltava e già mancava Effetto Notte. Mi raccomando Andrea, bentornato, non perdere le puntate di questa settimana. E poi qualcuno che fa alcuni commenti sulle culle sempre più vuote, dice questo messaggio: non c'è bisogno del sociologo, non si fanno figli da disoccupati senza reddito di certo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, questo è uno dei temi naturalmente che tratteremo e cercheremo di capire perché questa denatalità che dura ormai in Italia da 8 anni. Certo, alcuni motivi sono abbastanza lampanti ultimamente, però insomma. E poi dice qualcuno: Berlusconi è ancora presente, ma che colpa abbiamo noi, cantavano i Nomadi. Poi gli altri commenti direi che li rimandiamo tra poco. È viabilità. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, le notizie le avete sentite nel riassunto della giornata, poi ve le ricordo i titoli principali, se avete acceso puntualmente la radio alle 21, intanto con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. A proposito della denatalità di cui parleremo, Domenico per esempio dice: l'unica causa è la mancanza di politiche serie per la famiglia, per esempio con rette di asili nido che sembrano quelle dei mutui, come è possibile pensare di fare figli? E in effetti siamo proprio su quella strada lì come motivazioni. Michele dice: sì, le unioni civili sono la causa principale, queste lobby hanno distrutto la famiglia del Mulino Bianco e la condanna del nostro Signore Gesù. Poi dice: la causa principale del calo della natività è solo esclusivamente la crisi economica. Michele, sei un po' confuso diciamo nel tuo messaggio, però ne parleremo tra poco. Adesso invece affronteremo altri argomenti, cominciando dalla politica e quindi da queste schede man mano tutti i giorni per darvi un'idea dei contenuti della riforma e quindi per farvi voi un'idea se votare sì o no, naturalmente in libertà. E poi direi di ripartire quindi dai fatti principali. Timori sul voto e quindi le banche fanno crollare Piazza Affari che perde quasi il 2%, lo spread a 186 punti e il ministro Pado anche dice: i mercati non amano l'incertezza. Renzi, a proposito della manovra economica che intanto è passata alla Camera, dice: in arrivo 30-50 euro per le pensioni più basse. Poi dagli Stati Uniti il presidente Trump che minaccia stop all'accordo con Cuba se Cuba non lo vuole migliorare. Poi oggi lungo addio a Fidel a Cuba appunto. L'ex sindaca Vincenzi, ex sindaca di Genova, condannata per l'alluvione di Genova 2011, a 5 anni, morirono 6 persone. Lei dice: mi considero innocente. Anche di questo ci occuperemo, così come anche delle firme false in cui coinvolto il Movimento 5 Stelle a Palermo. E poi negli Stati Uniti un uomo di origini somale ha assaltato un collegio universitario in Ohio, 10 feriti, è stato ucciso dalla polizia, non escluso un atto di terrorismo. E poi per quanto riguarda l'Italia, sempre meno figli, 1 su 3 tra l'altro da genitori non sposati, sono in calo le nascite anche da parte degli stranieri. E dalla Svezia arriva questa invenzione, un pulsante per sparire dal web. Quindi vi dicevo, inizia oggi il viaggio di Radio 24 dedicato alla riforma costituzionale oggetto del referendum del prossimo 4 dicembre. Partiamo allora dalle modifiche finalizzate al superamento del bicameralismo perfetto. Verso il voto. Elemento cardine della riforma costituzionale è la fine del bicameralismo paritario, ovvero dell'esistenza di due camere con gli stessi poteri. A votare la fiducia al governo e ad approvare le leggi sarà soltanto la Camera dei Deputati. Ci vorrà anche l'ok del Senato soltanto per le leggi elettorali e per quelle che riguardano comuni e città metropolitane, Costituzione, trattati europei, referendum popolari e minoranze linguistiche. Il nuovo Senato diventerà la sede di rappresentanza di regioni e comuni. Il numero numero dei senatori passerà da 315 a 100, di questi 74 saranno scelti fra i consiglieri regionali, 21 fra i sindaci. Gli altri 5 verranno nominati dal Presidente della Repubblica e resteranno in carica per 7 anni. I nuovi senatori manterranno l'immunità e il divieto di vincolo di mandato, non percepiranno invece l'indennità parlamentare, conserveranno soltanto il loro stipendio di consiglieri regionali o sindaci, mentre quelli di nomina presidenziale non avranno alcuna retribuzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, e domani parliamo invece della riforma del titolo quinto, sempre contenuta nel referendum che si andrà a votare il 4 dicembre. Adesso però parliamo di altri temi, parliamo della sentenza di condanna che è arrivata oggi per l'ex sindaca di Genova, che è Marta Vincenzi. È stata condannata a 5 anni per i tragici fatti dell'alluvione del 4 novembre 2011 a Genova, in cui persero la vita 4 donne e 2 bambine. La Vincenzi era accusata di omicidio plurimo, disastro colposo, falso e calunnia. Solo quest'ultima accusa poi per questa è stata assolta, rimane omicidio plurimo, disastro colposo e falso. Lei ha detto: io mi considero innocente. Non è finita qui, ma ci colleghiamo con il nostro Andrea Ferro in diretta da Genova. Caro Andrea, buonasera. Buonasera Roberta. Buonasera. Intanto ti dico che l'Inter è a 3-0, tu sei interista per caso? No, giusto così. Una comunicazione a te e agli ascoltatori che fossero interessati, invece restando, andando sulla... Contro chi gioca? Contro la Fiorentina. Ah, ok. 3-0. Sei tranquillo allora. Okay, invece su questa sentenza, no, una sentenza comunque pesante, di cui i fatti sono gravissimi, però per un sindaco non so se è una delle prime volte che arriva una condanna del genere. Sì. Direi di sì. Marta Vincenzi, un ex assessore e 3 dirigenti del comune, quindi di mezzo c'è tutta la macchina della protezione civile del comune, sono stati giudicati colpevoli per non aver diramato l'allerta, appunto quel 4 novembre di 5 anni fa. Per questo motivo non scattò la chiusura delle strade nella zona del Fregiano, e così i ragazzi che uscivano da scuola, i passanti, gli automobilisti furono investiti dall'onda di piena del torrente, praticamente uno tsunami tra il cemento di Marassi. Ricorderete quelle immagini impressionanti che fecero il giro del mondo. Quell'onda inghiottì, come dicevi, 6 vite e portò distruzione in tutto il quartiere. 5 anni, dicevi, è la condanna inflitta oggi a Marta Vincenzi, che chiaramente ha respinto il verdetto e poi ha giudicato infamante l'accusa di falso, cioè l'accusa di aver fatto redigere un verbale con una ricostruzione del disastro non vera, allo scopo di limitare, comunque aggiustare le responsabilità per la mancata allerta. A questo proposito sentiamo cosa ha detto. È la più infamante, l'ho rigettata fin dall'inizio, come tutti sanno. Mi spiace, evidentemente il giudice non si è convinto, spero si convincano altri. Reazioni chiaramente di segno opposto da parte dei parenti delle vittime, che si sono costituiti parte civile. Questa è la testimonianza di Diala Flamur, il muratore albanese che quel 4 novembre del 2011 aveva perso la moglie e le 2 figlie, Gioia di 8 anni e Gianissa di 10 mesi. Ascoltiamolo. Mi fa piacere in questo paese che hanno cambiato tante cose, che vedo quando piove, quando sono delle allerte. Credi che la sua famiglia poteva essere salvata? Sicuramente sì, però ormai siamo 5 anni qua che sappiamo tutto, la verità, tutto quello che è uscito ci ha dato quello che meritavano. Anzi, se era per me anche di più, però è giusto sia così. Il giudice Adriana Petri ha condannato il comune di Genova al pagamento di provvisionali immediatamente esecutivi per quasi 4 milioni di euro a favore appunto delle parti civili. Da Genova è tutto, Roberto. Andrea, volevo dirti, sì, anche, dimmi, allora, dimmi, uno, certo. Naturalmente questo è il primo grado, no, di giudizio, la stessa, sì, certo. Vincenzi, infatti, ha Vincenzi detto, dice, meno male che ci sono 3 gradi, insomma, vedremo, sì, poi come proseguono gli altri gradi. Senti, invece la cosa interessante, sì, importante, è capire come sono cambiate le cose da allora, per esempio in questi giorni, proprio in questi giorni, no, abbiamo parlato insieme in collegamento con te anche da Genova, certo, dalla Liguria, della piena dei fiumi, delle esondazioni eccetera, però questa volta ha funzionato in modo diverso, mi pare, il coordinamento tra la protezione civile, l'ALER, i comuni, la regione. Diciamo che queste sono purtroppo drammatiche esperienze che insegnano e che determinano un approccio completamente diverso sia da parte dell'amministrazione ma anche da parte dei cittadini, perché poi bisogna che quando scattano i provvedimenti qualcuno li recepisca e applichi, diciamo così, quelle condotte di prudenza che sono sono inevitabili per evitare che appunto poi un evento eccezionale, come purtroppo ormai si sta ripetendo, perché vediamo che accadono dei fenomeni meteorologicamente che una volta almeno noi non vedevamo, non consideravamo possibili alle nostre latitudini. Ebbene, di fronte a un rischio di questo genere, a un'ipotesi di questo genere, oggi, a partire da Genova, ma lo ha dimostrato anche il Piemonte la scorsa settimana, c'è un'attenzione diversa rispetto a quanto avveniva qualche tempo fa, quando mancava sostanzialmente una percezione del pericolo sia da una parte che dall'altra, e i risultati di come è stata gestita l'emergenza della scorsa settimana, al di là del fatto che purtroppo talvolta intervengono anche delle casualità che sfuggono da qualsiasi piano preventivo, però indubbiamente abbiamo visto che l'allarme, complice anche previsione, perché poi è molto importante questo, quando c'è una previsione attendibile, quando c'è un'attenzione diciamo ora dopo ora sull'evoluzione meteo, si può poi tarare con un certo anticipo il tipo di provvedimento preventivo da adottare, e a questo punto si riducono i margini di rischio, anche se, come ripetiamo, io ieri ero a Marassi a vedere quella casa che era in bilico sul torrente, francamente in situazioni particolari come quelle di Genova, con il cemento che negli anni 50, negli anni 60 è colato ovunque, quindi c'è un dissesto idrogeologico che mette costantemente a rischio la che è un male atavico questo dell'Italia, certo. Non sono lì purtroppo. Andrea, per chiudere, perché abbiamo pochi secondi, ci sono alcuni ascoltatori che insistono, dite al quale partito appartiene l'ex sindaco di Genova, va bene, al PD. Allora sì, è una lunga carriera politica, è iniziata ai tempi del PC, io la ricordo assessore in provincia, poi presidente della provincia di Genova, europarlamentare, poi l'elezione a sindaco, coronamento di una lunga gavetta, ecco, potremmo dire, un personaggio che fino al giorno dell'alluvione riscuoteva, ora al di là delle idee politiche, un certo rispetto, certo, in città. Grazie Andrea Ferro da Genova, ciao Andrea. Buonasera, ciao, ciao Roberta. Ora invece ci soffermiamo sul caso delle firme irregolari nel quale è coinvolto il Movimento 5 Stelle, prima a Palermo e poi a Bologna, ma gli sviluppi riguardano l'inchiesta di Palermo, perché sale a 13 il numero degli indagati nell'inchiesta della Procura di Palermo sulle firme false per la lista del Movimento 5 Stelle alle comunali del 2012. Oggi ci sono stati alcuni tra gli interrogati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Chiediamo conferma alla nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Manuela, ci riassumi brevemente. Queste comunque sono le novità, no? Le ultime. Sì Roberta, queste sono le novità, e la novità riguarda soprattutto la caratura delle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere, perché parliamo dei deputati Riccardo Nuti e Claudia Mannino, gli stessi che non hanno deciso di raccogliere l'invito all'autosospensione che era stato lanciato da Grillo e che si sono messi di traverso sostanzialmente anche rispetto alla linea che era quella indicata dal Movimento. Per loro si profila a stretto giro la sospensione cautelare dal Movimento. Già oggi potrebbe riunirsi il collegio dei propri viri, che è stato indicato venerdì scorso e che è previsto dal nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, per decidere proprio di comminare la sanzione della sospensione, preludio a una possibile futura espulsione che però, ecco, sicuramente è rinviata dopo il referendum. Grazie Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Ciao Manuela. Ciao Roberta. Grazie. Ciao. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma intanto volevo ancora guardare qualche altro vostro messaggio, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore, per le nascite in meno una delle risposte è fare un figlio per i costi da sostenere per la gravidanza, per molti sono insostenibili, visto che se lo vuoi fare sono tutte a pagamento, almeno al sud. Dice, se la sanità era gratuita per tutte, per la gravidanza è diverso. E adesso questo non so dire, a seconda delle varie regioni. Poi dice invece altri messaggi, per esempio qualcuno parla, ecco, anche Alberto dice, completa totale assenza di politiche per la famiglia, questi sono i motivi. Io e la mia compagna, io ho 50 anni, lei 46, non abbiamo figli perché abbiamo lottato con le unghie e con i denti per tenere aperta un'attività senza successo e ci ha sottratto tempo utile per pensare al futuro. Questo messaggio, così un po' di di confidenza anche di Alberto su una cosa abbastanza delicata. Perché? Perché non si fanno figli? Perché da diversi anni in Italia continua a calare la natalità? Secondo i dati Istat, no? Sono almeno negli ultimi 8 anni c'è stato proprio un calo notevole e adesso pare che neanche i migranti abbiano diminuito, insomma, il numero delle nascite. Ne parleremo tra pochissimo a 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Tra poco vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, non tutti, per questioni logistiche, per altri motivi possono essere tutta l'ora, ma è quello che vi consiglio però, di essere sempre informati, non perdere mai tutte le sere Effetto Notte dalle 21 alle 22 di seguito, senza quasi respiro. Allora, i vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. E intanto vedo un aggiornamento per quanto riguarda Inter-Fiorentina, posticipo di Serie A, 3-1 in questo momento, ha fatto il gol la Fiorentina, 3-1 la partita. Poi vi ricordo anche le altre notizie e tra poco saremo invece su un altro tema, quello della denatalità in Italia. Quali sono i motivi? Vedo diversi vostri messaggi, molti, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Io direi adesso, prima di tutto però, di ricordare appunto, come dicevamo, i fatti principali. L'alluvione di Genova del 2011, l'ex sindaca Vincenzi condannata a 5 anni per i tragici fatti in cui persero la vita 4 donne e 2 bambine. Lei dice sono innocente, non finisce qui. Effetto referendum sulle banche a Piazza Affari, la borsa di Milano ha ceduto l'1,81% e lo spread ha chiuso a 186 punti. La manovra economica via libera della Camera, in arrivo 30-50 euro per le pensioni più basse. La vicenda delle firme irregolari che coinvolge i 5 Stelle, sale a 13 il numero degli indagati a Palermo. Stati Uniti, la Casa Bianca ribadisce che non ci sono stati brogli nel voto per le presidenziali, come invece denunciato dal presidente Trump. E sempre in Stati Uniti, in Ohio, un uomo di origini somale ha assaltato un campus travolgendo alcuni studenti con un'auto, 8 feriti. A questo proposito c'è un aggiornamento: l'assalitore del campus è stato identificato dalle autorità come un giovane somalo di 18 anni, è arrivato in questo momento questa notizia, si chiama Abdullah Razak Ali Artan. Secondo alcuni media era uno studente della stessa università, ha lasciato il suo paese con la famiglia nel 2007 come rifugiato. Sarebbe vissuto in Pakistan prima di sbarcare negli Stati Uniti nel 2014 come residente permanente. Poi dati sulla natalità, di cui parleremo tra pochissimo. Infine il calcio, vi ho dato un aggiornamento: Napoli Sassuolo, che era già finita prima che cominciassimo Effetto Notte, 1-1, mentre appunto questo è il risultato, 3-1 tra Inter e Fiorentina. Occupiamoci allora adesso della situazione demografica del paese. I dati sulla natalità, secondo i numeri dell'Istat riferiti al 2015, le nascite in Italia sono ancora in calo, quasi 17.000 in meno rispetto al 2014, meno 95.000 in 7 anni. A conferma quindi della tendenza della diminuzione della natalità, un calo attribuibile principalmente alle coppie italiane, ma anche gli stranieri residenti in Italia in realtà stanno facendo un po' meno figli. L'unico dato in crescita è per i bambini nati da genitori non sposati. Quasi un bambino su 3 in Italia nasce da genitori non sposati. Poi c'è stato oggi l'intervento del ministro Costa su questo, che magari vi leggerò tra poco, però intanto coinvolgo e saluto Mario Abis, sociologo dell'Università IULM di Milano. Buonasera. Abis. Buonasera. Allora, mentre ci sono gli ascoltatori, c'è chi attribuisce all'aborto e quindi alla strage degli innocenti, neanche fosse come in India o in Cina con l'aborto selettivo sulle bambine, in particolare mancano milioni all'appello. Poi altri dicono è l'egoismo, una questione di egoismo personale, non si vogliono più fare sacrifici. Qualcun altro dice ci si ama meno, insomma tanti motivi. Però quello che le chiedo, alcuni danno come al solito la colpa alle donne, si sono emancipate, sono troppo libere, autonome, non hanno più voglia di fare figli. Quanto invece, al di là delle ipocrisie, anche dei pregiudizi, degli stereotipi, professor Abis, conta la mancanza in un paese come l'Italia delle politiche per le famiglie? Ma conta moltissimo, basta pensare che per paesi come la Scandinavia, se andiamo a vedere i dati degli ultimi 10 anni, che erano paesi a bassa natalità, molto più bassa del nostro negli anni ancora, negli anni 60-70, hanno fatto una politica per le famiglie, per l'incremento demografico, che ha avuto un esito positivo. Infatti abbiamo indici demografici in età di natalità, in età crescita in quei paesi che sono molto più fertili di noi, no? Può sembrare un paradosso, se pensavamo a cos'era il rapporto fra noi e Nord Europa tanti anni fa, si sono invertiti i rapporti. Quindi sicuramente, e questo è nato proprio da una politica, per incentivi, comunicazione, tante cose messe insieme. Perché questo fenomeno continua, un trend ormai strutturale di questo paese? Come ricordava lei, i fenomeni possono essere tanti e molteplici. Oggi nelle complessità sociali non è che c'è una causa, ci sono tante cause che si combinano l'una con l'altra. Cambiamenti degli assetti etico-morali, cambiamento del ruolo della donna, però il punto fondamentale, come ben sappiamo, soprattutto negli ultimi 4, 5, 6 anni, è stato soprattutto il tema di carattere economico. Cioè, oggi c'è una questione di percezione di difficoltà, di impoverimento, e soprattutto è un fatto sia materiale che psicologico, l'idea di un futuro incerto, di un futuro instabile, di un futuro non chiaro, e per certi versi anche pieno di ansie, e questo è perfettamente contraddittorio con l'idea di fare figli e costruire una propria vita, una vita che vada oltre la propria. A questo proposito, infatti, scusi professor Abis, un ascoltatore fra gli altri dice: oggi fare un figlio è diventato un bene di lusso, sono in ospedale con mia moglie che deve partorire. Quindi lo ringrazio questo ascoltatore di aver avuto voglia anche di scrivere, di partecipare con Effetto Nota. Dice: sono felice ma allo stesso tempo preoccupato, perché il futuro in un paese che non garantisce lavoro io lo vedo nero. Sì sì, ma è quello esattamente l'esperienza espressiva che lei citava di oggi, è un dato sociale ed economico strutturale da tempo. Oggi tanto c'è un tema di impoverimento, tanto per essere chiaro, che riguarda molti strati sociali, tanto è vero che lei ricordava che anche quel pezzo di popolazione di immigrati che era quella che teneva su, no, l'indice di natalità fino adesso, comincia a calare anche quello, perché ormai sono diventate coppie, famiglie nel nostro tessuto socio-economico, e quindi sentono anche loro la crisi e le difficoltà. Quindi c'è un tema di impoverimento attuale, e poi soprattutto, come ricordava anche quella testimonianza, c'è l'idea del futuro che manca, che succederà, qual è il quadro e il contesto di riferimento. C'è un tema di insicurezza, di incertezza legata proprio al tema fondamentale del lavoro, quello che ci aveva fatto fare, tanto per essere chiari, i famosi boom demografici legati al boom economici negli anni 60, quando ci sono stati dei grossi, forti incrementi demografici, la condizione economica, che era una condizione anche psicologica, l'idea di uno sviluppo di un futuro, accompagnava questi processi di allargamento della popolazione. Oggi siamo in una situazione completamente diversa e con incertezze che sappiamo, e io penso che il tema delle politiche per la famiglia diventa di un'attualità enorme, perché sappiamo benissimo che il tema demografico si collega al tema dello sviluppo di un paese, di una costruzione di capacità economiche, culturali, innovative. E quindi se un paese che non solo cala a livello demografico, ma diventa sempre più vecchio, perché il processo è correlato, no? Cioè noi abbiamo una popolazione che sempre più è fatta da vecchi, da pezzi di società che sono importanti oltre i 65-70 anni, parliamo del 18-20% della popolazione, che tende a crescere. Professore, quindi ogni tanto la sentiamo male, non so se è al fisso o al cellulare, però le volevo dire, che basta vedere, in base a quello che lei diceva, la Francia, delle politiche per le famiglie, no? Che mandano avevo visto un servizio tempo fa, che mandano la tata alle coppie che appena hanno avuto un figlio, a volte anche una persona che aiuta a fare le pulizie, quindi c'è una forma di welfare anche in un paese dove economicamente, diciamo, non sarà in crisi come noi, ma non è che sia tanto tanto meglio. Tra l'altro, dicevo, il ministro Costa oggi, che ha la delega alla famiglia, ha reagito così a questi dati Istat dicendo: questo governo, come nessun altro, ha scelto di mettere la famiglia al centro. La misura a sostegno della natalità che abbiamo previsto nella legge di bilancio con 600 milioni di euro, e ricordava il premio alla nascita per le future mamme, il buono nido, il bonus bebè, fondi di garanzia per il credito per i nuovi nati, il voucher babysitter rafforzato ed esteso alle lavoratrici autonome. Che ne pensa? Ma spero che mi sentiate meglio adesso. Sì, meglio, decisamente. Penso che siano degli atti importanti, ma non sufficienti. C'è un tema di sostegno economico con tutto questo meccanismo di incentivi che lei ricordava, che è stato fatto proprio anche nelle politiche dei paesi scandinavi che citavo prima, ma c'è un tema anche di servizi più generali. I servizi di welfare, di assistenza contano, soprattutto per le coppie che hanno problemi di precariato nel lavoro, quindi avere delle assistenze nei contesti urbani e familiari è molto importante in un momento in cui la società si allarga nelle grandi aree metropolitane, quindi problemi di mobilità, che di tempo passato a trasportarsi da un pezzo all'altro delle città, che impattano sul tema del rapporto con i figli, naturalmente. E poi c'è un tema anche c'è un tema, se mi permette un'ultima battuta, che è un tema di comunicazione. Bisogna anche creare una cultura attraverso la comunicazione sociale di quello che significa, che importanza ha fare dei figli e sfidare in qualche modo il futuro. Questo è un punto, a mio parere, che non ha a che fare solo col tema degli incentivi economici, un tema proprio di comunicazione sociale, come è stato fatto nei paesi che ricordavo prima, e insomma creare una cultura positiva della crescita. Ecco, le dico l'ultima cosa, abbiamo pochi secondi, ma voglio leggere anche questo messaggio controcorrente di questo ascoltatore, che dice: Daniele, ma non siamo già 8 miliardi al mondo, nemmeno le cavallette, perché si continua a parlare di denatalità? Il benessere porta a fare meno figli, il matrimonio per amore porta a meno figli. Vuole fare una battuta su questo? Siamo in chiusura. Il discorso dell'amore, dei rapporti fra uomo e donna, del sovrappopolamento, anche mi pare che faccia. Sovrappopolamento è un altro discorso, però il problema è del riequilibrio fra le popolazioni, perché le popolazioni più povere sono quelle più sovrappopolate, che crescono di più. C'è un tema di ridistribuzione ovviamente della ricchezza, e invece di far crescere i paesi più ricchi per dare più spinta anche alla ricchezza, che deve essere ridistribuita. Questo è un punto. Circa il tema dell'amore, delle coppie che si amano di meno, l'amore che ce n'è di più di meno, questo è un tema molto complesso, molto soggettivo. Infatti, alla prossima puntata. Grazie professor Mario Abis. Grazie professore. Intanto ricordo che i nomi più gettonati continuano a essere Francesco per i maschi e Sofia per le femmine. Viabilità. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ora, sempre io, Roberta Giordano, ve le ricordo in pochi secondi: timori sul voto, tanto che Piazza Affari perde quasi il 2% per il crollo delle banche. Il ministro Padoan dice: i mercati non amano l'incertezza. E poi Renzi, che a proposito della manovra, che oggi ha avuto il via libera alla Camera, dice: in arrivo 30-50 euro per le pensioni più basse. E poi le firme false che coinvolgono il Movimento 5 Stelle a Palermo, sale a 13 il numero degli indagati, alcuni di loro si avvalgono della facoltà di non rispondere. Negli Stati Uniti un studente di origini somale ha assaltato un college nell'Ohio, 10 feriti, lui è stato ucciso dalla polizia, non è escluso un atto di terrorismo. E poi sempre meno figli, ne abbiamo parlato in Italia, e poi uno su tre viene da genitori non sposati. Per quanto riguarda la partita Inter-Fiorentina, sempre 3-1. Adesso lo spazio europeo, quanto conta la voce dei cittadini europei? Youzone, incontro con gli europarlamentari.